Bentornati carissimi amici Radio Pazzoidi, state ascoltando il sesto appuntamento con Back to the Future. Ovviamente qui al microfono con voi è Back. Non perdiamo troppo tempo e andiamo subito al sodo, vista poi l'astinenza prolungata da psichedelia elettronica, vi faccio andare in trip con questo pezzo intitolato Taking the Bus. L'autore è un certo Someone, detto anche Tobias Peterson, direttamente da Würzburg in Germania. Buon viaggio! Sì, lo so, anch'io all'inizio pensavo ci fossero problemi con la scheda audio del computer, ma poi tutto si è sviluppato a dovere in un ritmo davvero niente male. Peccato si tratti di un gigantesco loop e niente più. Comunque lo abbiamo apprezzato muovendo ripetutamente la testa nello spazio. Questa volta voglio parlarvi di una cosa molto importante, cioè che Back to the Future partecipa agli European Podcast Awards. E ovviamente anche voi potete votare il nostro podcast. In particolare, la cosa più interessante è che ci sono dei premi in palio anche per voi. Ma per maggiori informazioni visitate il nostro blog radiopazza.blogspot.com, dove troverete tutti i links del caso. Non dimenticate poi che Back to the Future è anche in streaming nel palinsesto di yastaradio.com. Bene, dopo aver fatto il mio dovere di speaker radiofonico, passo ad iniettare nelle vostre orecchie una track titolata Creep e realizzata da Stark, che potete trovare su jamendo.com. Peccato questo pezzo non ci sia più, ma troverete altri dello stesso calibro, non vi preoccupate. A fra poco.

come si sente quando si ha a che fare con giovani menti, un po' per questa mania dei suoni da vecchio arcade che ovviamente non hanno mai conosciuto nelle care vecchie sale giochi degli anni 80 e un po' per il modo irrequieto di saltare da un pattern all'altro. Comunque questo pezzo mi ricordava anche molto la sigla di Futurama, non so se ci avete fatto caso, vabbè. Passiamo oltre, andiamo ad un personaggio che io ammiro e stimo, non tanto per la sua sconfinata ed euforica produzione, ma anche per il suo stile volutamente sbagliato. Lo so, non saprei descrivere diversamente il suo modo di abbinare i campionamenti, eppure il risultato è sorprendente. State per ascoltare lo stile irriverente di Chenard Walker con la sua Magic Number. Is a magic number. Yes it is. Is a magic number. Yes it is. Is a magic number. Yes it is. Is a magic number. Yes it is a magic number. Yes it is a magic number. Is a magic number. Yes it is a magic number. Yes, it is a magic number. Yes, it is a magic number. Yes, it is a magic number. Yes, it is. Avrete sicuramente riconosciuto qualcosa nei vari campionamenti, vero? O forse no? Io ne rimango solo confuso ed estasiato. Comunque, Chenard Walker lo trovate su archive.org completamente gratis, grazie al marchio Creative Commons. E non è il solo a creare questi wrong mixes, come amo definirli, perché ci sono anche dei suoi amici italiani, che si chiamano i Martelli Pneumatici, che ci fanno sentire un'ancora più assurda mescolanza con la loro Notte e Giorno. Rieccoci di ritorno da questo wrong mix dei Fratelli Pneumatici, una formazione siciliana che fa parte dell'entourage del prima citato Chenard Walker. E poi che bello il finale con questo pensiero d'amore, chissà da dove viene il sample. Se lo sapete, siete pregati di farmelo sapere scrivendomi all'indirizzo radiopazza@gmail.com. Sono veramente curioso. Back to the Future prosegue con un po' di musica gypsy dall'Europa dell'Est. Questi sono i Kesaku dalla Francia con la loro Zigani Electrics. Fight not one beast, but legions that go on age after age after age, feeding on the blood of the living. Mm-hmm.

Questo pezzo era Cabin Fever di Transient, artista statunitense di Gloversville. Boh, chissà dov'è. Comunque di Transient abbiamo già mandato altre cosette qui su Back to the Future, però non mi creo scrupoli nel ripetere l'esperienza di ascoltare con tanto stile. Ora che ci siamo rilassati, sprofondando tra i cuscini dell'inconscio, quello che ci aspetta consiste in una serie di schiaffoni psichici che non risparmiano. Un brano intelligente quanto confuso, quello di Fenshu, dal titolo Cat. So che per molti di voi questo genere di suoni sono qualcosa di terribilmente nuovo, però sarebbe bello raccogliere le vostre impressioni, magari conoscere i pensieri che vi attraversano la mente durante questo alternarsi fra melodie e rumori. A me sembra quasi di singhiozzare col cervello, devo dire, mentre cerco di capire cosa succede. Dopotutto c'è sempre una bella differenza tra il primo ascolto ed eventuali ripassi, no? Costui era Fenshu da Parigi, un ragazzo che definisce la sua musica EDM, Intelligence Dance Music, e psicotropico delia, come dice lui. Insomma, un genietto da non sottovalutare. Adesso tocca ad un altro francese, stavolta sono proprio andato in fissa. Trattasi di un certo Canil, che ho trovato su archive.org, con un brano dal titolo poetico che suona così: Un matin presque bleu. We'll be right back. Mi piace come nella nostra epoca ci si immerga nell'investigazione per scoprire se esiste il confine tra suono e rumore, tra razionale e casuale. Mi domando poi come si possa suonare dal vivo un pezzo del genere, veramente. Comunque vi chiedo scusa per la pronuncia buffissima del mio francese, ma non ci posso proprio fare niente, quindi per non dovermi sforzare ancora vi porto in Spagna per proseguire il nostro viaggio. In chiusura ci ascoltiamo i Da Robots dall'Iberica Oviedo con la loro R Coppa Turbo. Noi ci incontreremo di nuovo qui su Back to the Future per scoprire nuovi spunti di elettronica trasversale fra un mesetto circa. A voi un caldo e sinusoidale abbraccio da Bach.